Focus Economia. Sono le 17.06, buonasera da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia, la giornata economico-finanziaria che, nonostante sia ormai agosto, ferie piene per le famiglie italiane, non manca di raccontarci dei dati economici anche piuttosto preoccupanti, perché lo avete sentito anche nel giornale radio. Questo sarà un tema sul quale focalizzeremo l'attenzione nella prima parte della trasmissione. C'è il dato sul prodotto interno lordo del secondo trimestre, la prima stima che però decreta ancora una volta un calo pesantissimo per l'economia del nostro paese. Il dato sulla produzione industriale è ancora peggio, commenteremo tutto questo con il presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Parleremo poi naturalmente anche di mercati a lungo come sempre. Anche oggi notiamo una giornata molto brillante sui mercati azionari, più 2,15% in questo momento per il FTSE MIB a Piazza Affari, mattinata più volatile, pomeriggio invece decisamente più deciso per i corsi azionari, incoraggiati anche dallo spread in ulteriore riduzione, oggi sotto i 450 punti base. Buone notizie, non si capisce bene a cosa le borse si siano agganciate oggi. Ancora una volta gli operatori indicano la prospettiva di questo intervento della BCE nelle prossime settimane, ma non si concretizzerà prima di settembre, per cui sarà interessante analizzare anche nuovamente questa giornata di borsa, che vede fra i titoli più scoppiettanti A2A più 10%, Unicredit più 6, Popolare dell'Emilia Romagna più 4,58%. Poi ne parleremo diffusamente. Parleremo poi della situazione all'Ilva di Taranto con la pronuncia del Tribunale del Riesame, lo avete sentito anche questo nel corso del giornale radio. I giudici hanno detto sì, hanno confermato il sequestro degli impianti, ma per risanare gli impianti, non per la chiusura definitiva. Detto questo, la situazione chiaramente di agitazione fra i lavoratori non si placa. Questi i principali argomenti dei quali ci occuperemo. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, le vostre considerazioni sui temi di oggi. Adesso le altre notizie in breve. Notizie in breve che si aprono come sempre con l'andamento delle principali materie prime, delle commodities. Oro oggi in rialzo a $1611,20 l'oncia. A New York anche il petrolio aperto in rialzo a $92,52 al barile. Un caso di borsa americano che stiamo monitorando ossessivamente da settimane, il calo di Facebook, che ha perso il 45% del suo valore in borsa dalla quotazione di maggio, avrebbe però generato guadagni per oltre il 500% per alcuni investitori europei che avevano acquistato prodotti strutturati che avrebbero beneficiato di eventuali perdite del titolo. L'opzione put warrant, così si definisce in gergo finanziario, attraverso la quale si può speculare sul valore futuro dei titoli, prevedeva che il valore di Facebook sarebbe stato $22 per azione entro marzo e costava 6 centesimi di euro la settimana dopo l'IPO dello scorso 20 maggio, quando il social network sbarcò in borsa con un prezzo di collocamento di $38 per azione. Oggi, con il titolo Facebook scambiato intorno a $21, l'opzione è scambiata a 37 centesimi. Andiamo in Grecia, dove la Commissione europea conferma il target debito PIL della Grecia, punta al 120% entro il 2020. Lo ha detto un portavoce di Bruxelles interpellato sulla richiesta che arriverebbe dal Fondo Monetario Internazionale per modificare al 100% del PIL questo obiettivo. È un obiettivo ambizioso e noi lo confermiamo, ha detto ancora il portavoce. Tra l'altro non è un target deciso dalla Commissione europea, ma concordato da tutti i membri dell'Eurogruppo. Le questioni italiane. L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al provvedimento sulla spending review, che così diventa legge. Il provvedimento ha ricevuto 371 sì, 86 no e 22 astensioni. Presenti in aula in 479, i votanti sono stati 457. Come dicevamo prima, il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto, finalizzandolo al risanamento dello stabilimento. Il Tribunale del Riesame ha confermato gli arresti domiciliari per Emilio e Nicola Riva, ex presidenti dell'Ilva, e per l'ex direttore dello stabilimento, Luigi Capogrosso. Gli altri 5 indagati, tutti capi area Ilva, sono stati rimessi in libertà. Occorre evitare la chiusura, se si chiudono quegli impianti non si riaprono più, così le preoccupazioni espresse dal ministro dello sviluppo economico Corrado Passer appunto sull'Ilva. I fondi per la bonifica e i tempi per raggiungere standard diversi sono dati che tutti insieme portano ad evitare la chiusura, l'alternativa pane veleno è inaccettabile. Nuovo boom per la cassa integrazione a luglio e oltre 525.000 lavoratori a zero ore nei primi 7 mesi dell'anno. Secondo le elaborazioni della CGIL, da inizio anno le ore totali di cassa integrazione sono state 639.490.000, più 8,76% sul 2011, peraltro anche un numero difficilissimo da leggere. Il ricorso alla cassa mostra un rialzo complessivo che non si registrava da ottobre 2010, segnala il sindacato. E continuano anche le difficoltà nel mercato immobiliare in Italia. Secondo l'indagine Banca d'Italia, Tecnoborsa e Agenzia del Territorio, nel secondo trimestre di quest'anno la quota di agenti che hanno segnalato una diminuzione dei prezzi rispetto al periodo precedente ha continuato ad aumentare al 74,4% dal 69% della rilevazione precedente. In calo anche la quota di agenzie che hanno venduto almeno un immobile. Oltre il 70% degli agenti si attende un'ulteriore diminuzione dei prezzi nel breve, pessimismo anche nel medio periodo. Tutto sommato però non ci sembra proprio una notizia totalmente negativa, visto che magari se in qualche area i prezzi si aggiustassero e assestassero, magari il mercato immobiliare riprenderebbe. Un'ultima notizia, poi andiamo ai primi approfondimenti di oggi. Siamo proprio al rush finale, lo abbiamo detto anche questa mattina nel corso della trasmissione Salvadanaio. Siamo alle ultime ore per perfezionare l'accordo di integrazione fra Alitalia e la low cost siciliana Winjet. I rispettivi uffici legali sono al lavoro su documentazione e garanzie date dalla compagnia di Antonino Pulvirenti, mentre nel pomeriggio si starebbe svolgendo in queste ore appunto un comitato esecutivo di Alitalia a cui dovrebbe essere presentato l'accordo. Sembra quindi probabile che l'intesa venga raggiunta entro il termine di domani, dato in maniera anche abbastanza perentoria dal presidente dell'ENAC, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, Vito Riggio. Adesso siamo al primo tema di approfondimento di oggi. Allora, come abbiamo già detto anche nel giornale radio, oggi commentiamo i dati Istat sul PIL del secondo trimestre e i dati sulla produzione industriale di maggio. Le cifre sono davvero pesanti perché, secondo appunto le rilevazioni dell'Istituto di Statistica, nel secondo trimestre di quest'anno c'è stato un calo per l'economia italiana dello 0,7%, su base annua siamo a meno 2,5% e il dato acquisito fino a questo momento per l'intero anno è di meno 1,9%. Molto pesante anche il dato sulla produzione industriale nel nostro paese, meno 8,2% in giugno, meno 1,4% scusate su base mensile, meno 8,2% su base annuale. Enrico Giovannini, presidente dell'Istat, che naturalmente non abbiamo mancato di disturbare in vacanza, però ha voluto lo stesso essere con noi, quindi lo ringraziamo doppiamente. Buonasera presidente. Buonasera. Ci sente bene? Siamo a posto con il collegamento? Per me sì. Allora presidente, non usciamo fuori da questo tunnel, d'altronde questi dati li conoscevamo più o meno, non è che ci aspettassimo qualcosa di diverso, oppure tutto sommato rappresentano una sorpresa peggiorativa rispetto alle attese? No, è una conferma di trend che avevamo già potuto monitorare attraverso gli indicatori. In realtà anche la fiducia sia dei consumatori che degli imprenditori è ancora molto bassa. L'unico dato positivo di questi mesi è stato l'aumento delle esportazioni e che hanno continuato a crescere anche se in linea con il rallentamento dell'economia mondiale. Abbiamo un'indicazione di quali settori hanno continuato a trainare l'export? Beh, sono i settori che riescono a raggiungere soprattutto i mercati lontani, perché è chiaro che l'Europa è in forte rallentamento e quindi sono le grandi imprese che riescono a essere presenti sui mercati dei cosiddetti mercati emergenti, cioè la Cina, il Brasile, l'India, anche se le stime del Fondo Monetario Internazionale mostrano un rallentamento anche per questi paesi. Per quello che riguarda tra l'altro il dato sulla produzione industriale, andandolo a settorizzare, passatemi il termine, abbiamo visto come sia crollata la produzione nel settore dell'auto, anche questo un dato largamente preannunciato. A giugno il calo è stato del 22,5% rispetto al giugno dello scorso anno, nel semestre la diminuzione tendenziale è del 20%, un settore davvero in grossa crisi. Le altre cifre mostrano che l'abbigliamento e calzature hanno avuto un calo del 14%, meno 3,2% per la chimica, meno 9% per per il comparto elettronico, la siderurgia meno 8, meccanica meno 8, farmaceutica meno 2,5. Ci può dare qualche dato più, Presidente? O non ce n'è? Beh, in realtà il periodo è estremamente negativo, soprattutto per i settori che sono orientati al mercato interno, oppure quelli in cui c'è stata sostituzione di importazioni, penso alla carta, alla gomma, all'elettronica, ma anche alle stesse automobili, che pur nel dato così negativo vedono delle marche straniere che cadono di meno. Questo è purtroppo un fenomeno di lungo termine, cioè le nostre imprese tendono a importare di più dall'estero, il che vuol dire che quando ci sarà il rimbalzo dell'economia italiana e direi mondiale, purtroppo avremo anche un aumento di importazioni che quindi rallenterà la crescita del prodotto interno lordo. L'elemento cruciale in questa fase, la parola chiave è fiducia. Finché ci sono queste instabilità sui mercati internazionali e soprattutto finanziari, è chiaro che molte persone tendono a risparmiare, anche quelle non necessariamente colpite dalla crisi, e gli imprenditori tendono a rinviare i piani di investimento. Avevo notato che un segno più c'era nel settore estrattivo in Italia, peraltro per curiosità sono andata a vedere appunto quali comparti fossero contemplati nell'ambito di quest'area più complessiva, quindi le cave. Inizialmente mi era venuto in mente solamente il petrolio, Presidente, invece parliamo di un settore molto più dinamico, anche peraltro che ha delle eccellenze nel nostro paese, però insomma solo quello. Esattamente, è certamente troppo poco per trainare il resto del settore manifatturiero. Presidente, se il nostro paese non cresce, i nostri conti pubblici ne risentiranno ancora a lungo, ancora una volta mettendoci sotto severo esame da parte della comunità finanziaria internazionale. Lei che queste dinamiche le segue molto attentamente, magari è anche in grado di intercettare un possibile segnale di cambiamento di questa tendenza. Lo vede questo segnale? Ancora no, purtroppo il rischio per l'unione monetaria, quindi per tutti i paesi dell'euro, è questo avvitamento di cui spesso si parla, cioè il calo della produzione fa cadere il gettito fiscale e quindi impone dei tagli alla spesa pubblica ancora più forti, che a loro volta possono innescare elementi recessivi. La partita in Italia in particolare si può giocare in senso positivo su due aree: uno, il recupero dell'evasione. Il fatto di poter recuperare evasione potrebbe far scendere le aliquote legali, le aliquote che gravano su gran parte dei cittadini, e in questo modo riaprire uno spazio per la domanda interna. Il secondo aspetto è proprio il rinnovamento del settore produttivo in un'ottica green, come si dice, cioè in un'ottica di efficienza energetica. Ricordiamo che l'Italia paga moltissimo in termini di bolletta energetica, una politica europea e italiana in questa direzione potrebbe aiutare a rinnovare gli impianti non solo industriali ma anche migliorare l'efficienza delle nostre case, e questo nel medio termine, purtroppo non nel brevissimo, può produrre risparmi e quindi un rilancio della domanda. Anche perché, Presidente, lei lo sa sicuramente meglio di me, soprattutto questo è un elemento che pesa molto sull'attività delle piccole e medie imprese. Oggi non hanno l'aiuto finanziario, non hanno l'aiuto delle banche, anche eventualmente per convertire i loro standard produttivi, e con difficoltà le piccole imprese riescono ad andare con coraggio anche sui mercati internazionali. Quindi anche una sfida culturale, per la verità, della quale parliamo da molto tempo, ma chiaramente in uno scenario difficile come questo, che un'impresa si alzi con coraggio e rimodifichi interamente il suo processo produttivo è una bella sfida. Sì, ma anche per le famiglie. Ora, il fatto che il decreto sviluppo abbia contenuto al suo interno uno sgravio forte per cambiamenti delle nostre case, delle abitazioni, degli impianti più vecchi. Questo potrebbe rappresentare un'opportunità. Invece di fare grandi opere, fare tanti piccoli interventi che tra l'altro hanno un contenuto di occupazione maggiore, come lei ricordava, il settore immobiliare è certamente in grave crisi e il fatto di avere un rinnovamento dei nostri impianti di riscaldamento, ma in generale un efficientamento termico, potrebbe aiutare effettivamente il settore. Credo che serva un cambio di mentalità. Questa crisi ci ha insegnato che purtroppo la sua soluzione non è di breve termine. Dobbiamo come paese guardare al futuro e guardare a questi cambiamenti più di medio termine, perché soltanto in questo modo costruiremo un paese anche meno esposto a crisi internazionali. Questo vale per il debito interno, vale per il debito pubblico, ma vale anche per il debito, diciamo così, energetico. Presidente Giovannini, la ringrazio per essere stato con noi. Nonostante la distanza l'abbiamo sentita benissimo, soprattutto i suoi messaggi finali. Buona giornata e buon proseguimento di vacanza. Grazie, presto. Ho prima chiesto al presidente Giovannini di snocciolare, anche se fosse possibile, poi l'ho fatto io, qualche dato sull'andamento della produzione industriale relativo a qualche settore specifico, perché adesso voglio presentarvi un'iniziativa del Sole 24 Ore molto interessante. Lo facciamo con il vice direttore del Sole, Alberto Orioli. Buonasera, Alberto. Buonasera a tutti voi. Allora, per chi avrà comprato il giornale questa mattina avrà visto la prima pagina che titolava Viaggio nell'Italia dei distretti, il racconto dell'economia reale. I distretti, che sono una peculiarità del nostro paese, che ci danno anche lustro su scala economica internazionale, ma che in questo momento sono distretti perché vivono le loro difficoltà. E allora il Sole 24 Ore che cosa ha fatto? Praticamente riprendendo un lavoro addirittura fatto nel 1992, oggi lo ha voluto replicare per capire che cosa hanno fatto questi distretti nel nostro paese. Poi magari ve ne ricordo anche qualcuno: il tessile di Biella, chissà che per esempio a Canneto sull'Oglio si producono, questo è il distretto delle bambole, ci sono i cantieri della Spezia, naturalmente l'Ardesia della Liguria, i rubinetti di Lumezzane, potrei continuare ancora a lungo. Allora, cosa è successo in questi vent'anni? Vent'anni fa Alberto Il Sole mandò in giro per tutta Italia i suoi giornalisti per raccontare queste realtà industriali, queste eccellenze. Dopo vent'anni avete voluto rifare di nuovo questo percorso per scoprire che cosa? Dopo vent'anni ci apprestiamo a fare di nuovo questo percorso, perché per l'appunto nella nostra prima edizione avevamo scoperto i distretti nella loro essenza innovativa, perché ancora nessuno parlava di distretti industriali, si parlava di piccole e medie imprese, ma nessuno aveva capito l'essenza di rete naturale, diciamo così, che si creava fra le piccole imprese in modo spontaneo e diventavano esse stesse un soggetto economico più grande, evidentemente, nonostante le piccole dimensioni di partenza. Adesso quello stesso itinerario che ci aveva portato in 65 poli di eccellenza del Made in Italy italiano, appunto del Made in Italy produttivo del nostro paese, che poi così tanto lustro ci dà all'estero, tentiamo di riandare a vedere che cosa è successo. La sensazione dopo quel primo screening che abbiamo fatto, perché il viaggio vero comincia oggi, con le valvole di Valduggia, che sono uno dei distretti più importanti, perché producono, uno penserebbe che le valvole sono un prodotto base, in realtà no, sono valvole con valore aggiunto di tipo elettronico, di dimensioni enormi, che vanno in tutti gli oleodotti del mondo. Insomma, ecco, sono un prodotto del Made in Italy che ha una certa cura è una distinzione anche produttiva e tecnologica molto importante. Andiamo a vedere, sappiamo già che una parte, quasi un terzo probabilmente, di quei territori ha dovuto cedere il passo alle pressioni, alle spinte della globalizzazione che ha messo in campo. Quindi ce n'è qualcuno addirittura cancellato? Qualcuno dovrà essere definito cancellato, se non avrà mutato pelle, diciamo così, ecco, non avrà più le caratteristiche di partenza, come per esempio penso ai giocattoli, ad esempio, che hanno subito un contraccolpo molto forte dalla concorrenza internazionale, sia quella, diciamo così, regolare, sia quella, ahimè, irregolare, perché poi non dobbiamo dimenticare che molti fanno concorrenza sul prezzo anche con prodotti palesemente in dumping. Molti dei prodotti cinesi sul settore del giocattolo sono assolutamente al di fuori delle regole concorrenziali, tanto per citarne uno. E sappiamo anche però, fortunatamente, che il seguire il canovaccio dei 65 poli di eccellenza che avevamo identificato 20 anni fa non sarà sufficiente, perché sicuramente dovremo andare in altri territori che hanno creato nuove vocazioni e nuovi skill anche professionali, diciamo così, nuove forme di fare impresa molto legate all'innovazione digitale, all'innovazione tecnologica, che chiaramente 20 anni fa non aveva quell'impatto di rivoluzionario che poi adesso invece ha avuto per un certo tempo e avrà ancora a lungo in alcune produzioni nuove molto legate alle realtà, alle produzioni di internet, produzioni software, produzioni audiovisive e quant'altro, insomma tutti i business che allora effettivamente erano assolutamente embrionali e non certo, ancora. Certo, infatti, e voi infatti parlate anche nell'analisi che fate questa mattina sul Sole di una fase pionieristica che per molti distretti naturalmente non può che considerarsi che è conclusa, perché adesso dobbiamo parlare invece di attività assolutamente avanzate. Quanti di questi distretti, Alberto, avete monitorato, fanno, nonostante appunto ci siano le eccellenze del Made in Italy che probabilmente sono anche un po' in giro per il mondo? Stavo guardando la ceramica di Sassuolo, i vetri di Murano, i prodotti della siderurgia, i casalinghi di Omegna, i compassi di Palosco, questa è fantastica, poi tralascio naturalmente il prosciutto di Parma e il crudo San Daniele, però appunto quanti di questi distretti hanno avuto la capacità di presentarsi sullo scenario internazionale e di rimanerci con successo? Ancora questo, diciamo, come numero preciso diventerà una delle conclusioni del nostro nuovo Giro d'Italia, però sappiamo che la stragrande maggioranza è riuscita a mantenersi più che competitiva, concorrenziale, a prezzo di forti investimenti sulla qualità e sull'innovazione, perché non dimentichiamo che riesci a battere il tuo concorrente magari asiatico che punta tutto sul prezzo basso solo se il tuo prodotto è unico al mondo, ha una caratteristica anche di servizio personalizzato e utilizza materiali di una qualità assolutamente eccellente. Quindi questo è sicuramente quello che hanno fatto i distretti più classici, dal mobile alla pelletteria alle calzature, penso, che hanno però aumentato moltissimo anche il, diciamo così, l'iniezione di tecnologia, di innovazione. Pensate anche, che so, agli scarponi da sci o alle scarpe per fare trekking in montagna. Oramai ce n'è un campionario vastissimo, con adattabilità a piedi di ogni fattura, con immissioni di materiali che sono addirittura frutto di ricerche scientifiche, uniscono know-how di settori molto diversi, dalla chimica al tessile, per dire, che si sono fusi in progetti unificati che danno vita a prodotti che qualche anno fa non erano nemmeno pensabili, mentre altri più tradizionali contano su un marchio, una qualità che è unica nel mondo e che ancora mantiene le proprie credenziali di grande successo. Certo, senti, prima il presidente dell'Istat parlava di questa sfida culturale legata alla capacità o meno di imprese e anche famiglie, lui ci ha ammesso, di riconvertirsi, no? E quindi di poter cogliere le opportunità dei mercati anche internazionali attraverso questa svolta nel green. È chiaro che per questi settori dei quali parliamo, dei quali si parla appunto anche nella vostra super inchiesta che sarà lunghissima, forse una conversione di questo tipo è piuttosto complicata. Ma come dovrebbero ripensarsi anche questi distretti pur mantenendo inalterate le proprie vocazioni storiche? È una sfida anche questa assolutamente particolare, insomma molto importante. Ci sono almeno tre direttrici su cui effettivamente si può calibrare una politica industriale anche degna di questo nome, che tenga l'attenzione su questo tipo di poli produttivi. La prima è sicuramente quella che riguarda l'incentivazione alla ricerca scientifica, che unisca i poli universitari a queste zone di incubazione di impresa e queste zone, anzi, di Made in Italy consolidato, che hanno bisogno di progetti, di novità, di missioni di innovazione, di tecnologie e di un'osmosi osmosi costante con il mondo anche del sapere, diciamo così, non solo quello del saper fare. La cosa fondamentale è, come ci diceva Giovannini poco fa, il presidente Giovannini, è che vengano aiutate in questa fase pionieristica delle esportazioni, perché molti dei nostri distretti effettivamente lavorano in gran parte sull'estero e sopravvivono e anzi prosperano fortunatamente, perché oggi chi fa esportazione riesce ad andare in controtendenza rispetto alle tendenze macro che anche oggi purtroppo vengono fuori con il dato sul PIL. E quindi è fondamentale che si irrobustisca, diciamo così, l'azione di diplomazia commerciale che mette in campo i distretti. I distretti sono una particolarità tutta italiana, ce n'è qualcuno in Germania, ma tanto per dire la differenza di approccio, in Germania quando vogliono promuovere un distretto ci va il primo ministro e porta dietro tutta la filiera produttiva, impianta probabilmente nuove aziende, nuove filiere produttive anche là dove, dove intende sfondare nel nuovo mercato, parlo di mercati molto lontani, Cina, Brasile. Da noi ancora questa cosa non è così strutturata, diciamo così, ci sono questo delle iniziative. Questo accompagnare con la mano, sì, abbiamo avuto delle grandi missioni di sistema, però sono state sempre un po' abbastanza legate a grandi aziende, insomma. Esattamente, a grandissimi nomi, poi un po' spot, diciamo così. Questa azione di sostegno forte, vero, concreto all'esportazione deve essere sicuramente ci una manca delle pure che dobbiamo sviluppo. Adesso prendere questo esempio tedesco, Alberto, questa proprio non ce la dovevi dire. Comunque, e poi anche se la burocrazia si snellisse un po', sarebbe, è sempre troppo tardi il giorno che si snellirà tutto il processo burocratico anche per aprire un'impresa o comunque per far viaggiare meglio quelle eccellenti che già abbiamo. Buon lavoro, naturalmente. Grazie. Magari alla fine di questo percorso tornerà una seconda edizione del libro Gioielli, Bambole e Coltelli. Certo, penso proprio di sì, sicuramente, certo. Magari vista l'innovazione in formato ebook. Sono le 17.32, ancora buonasera da Deborah Rosciani, benvenuti di nuovo a Focus Economia. Adesso un quarto d'ora di tempo che dedicheremo alla giornata di borsa. Più tardi andremo come sempre ai dettagli della seduta di Piazza Affari, ancora una volta molto brillante, ma quello che ci interessa capire ancora una volta è analizzare come mai il mercato si è messo adesso in questa veste così ottimistica, così positiva, tanto che oggi porta Milano a guadagnare il 2%, siamo a 14.655 punti, i 14.500 erano livelli che non si vedevano dall'inizio di luglio, poi abbiamo avuto di nuovo grandi montagne russe, grande otto volante e adesso invece di nuovo operatori che ci ripensano quali saranno poi gli operatori che stanno facendo questi acquisti in questo periodo di agosto, ma in ogni caso abbiamo un clima molto positivo con Parigi che segna più 1,45%, Francoforte più 0,67%, un mercato che un giorno si deprime completamente per alcune notizie, il giorno dopo torna a trascurarle e rimbalza vigorosamente, solo che questo rimbalzo dopo venerdì è continuato anche ieri e oggi ne rimette a segno un altro. Allora, Vittorio Carlini, che tu stai sui report, ancora il collega del Sole 24 Ore, delle grandi banche d'affari che ieri hanno detto, soprattutto quelle americane, che siamo pronti, sono pronte ad una disgregazione dell'euro, hanno tutti i loro modellini matematici, tutti i loro grafici che le ha messe anche in condizioni di sicurezza, sono pronte con le spalle coperte appunto di fronte ad un scenario di questo tipo, invece da quest'altra parte dell'Europa li stiamo un po' così tenendo con il fiato sospeso perché gli operatori da quest'altra parte hanno deciso di ricominciare ad acquistare le azioni. Ma che succede? Succede che, parlando non con le grandi banche d'affari americane, che in questo momento secondo me è meglio evitare, ma dal punto di vista ovviamente dell'interpretazione dei mercati, ci mancherebbe altro, ma con esperti anche indipendenti, molto bravi, molto capaci, noi siamo di fronte a un mercato che in gergo tecnico si chiama un mercato laterale di rimbalzo, cioè in questo momento i volumi sono abbastanza sottili, bassi, e abbiamo essenzialmente degli operatori di breve periodo, cioè di gente molto brava, molto capace, magari anche che utilizza spesso e volentieri queste famose black box, queste macchinette, questi che approfitta anche del fatto che il mercato sia sottile, così magari piccoli acquisti riescono a far oscillare le quotazioni in maniera più vistosa. Certamente, non si tratta soltanto delle high frequency di cui si è parlato spesso e volentieri, ma si tratta proprio di macchinette, di algo trading che operano sui valori, quindi indipendentemente da quella che può essere la notizia, indipendentemente dal fatto che uno faccia una manovra finanziaria da 15-20 miliardi, indipendentemente che ci sia la riforma sulle pensioni, per esempio, questi operatori acquistano perché magari a un certo livello di prezzo, per esempio, del FTSE MIB, che è fortemente legato ai titoli di Stato italiani, corrisponde un interessante livello di entrata ed uscita, magari ad esempio sul future, sul bund. Quindi sono operatività di breve periodo legate molto a soglie tecniche. È un po' quello che è successo oggi. Sono state toccate alcune soglie importanti. L'euro ha testato la soglia dell'1,24 dopo averla rotta e ha ritracciato, poi a un certo punto verso mezzogiorno è rimbalzato su questo livello. Ecco allora che in una classica situazione che noi vediamo in questo periodo di risk on, cioè di voglia di rischio, nel momento in cui l'euro rimbalza, ma proprio per motivi anche tecnici, ci sono delle vendite da una certa parte di asset e degli acquisti su altri. In questo caso ci sono gli acquisti, risk on vuol dire voglia di rischio, su asset più rischiosi, quindi le azioni, quindi le azioni soprattutto dell'area euro. È per questo che abbiamo visto proprio a mezzogiorno un rimbalzo di tutti i listini, mm-hmm. e alcuni però secondo me è un po' un cercare una motivazione per a tutti i costi avere una motivazione razionale, l'hanno fatto coincidere col fatto che attorno a quell'ora è uscito il dato positivo di questa emissione, ma erano 800... del fondo salva stati dell'FSF, no, era la emissione greca dei sì, T-bill, la Grecia stamattina, sì. Di circa 800 milioni di euro con un rendimento un po' inferiore rispetto alla precedente emissione. Come dire, l'uomo ha sempre bisogno di una giustificazione razionale, comprensibile, per avere una come dire, giustificazione a quello che sta succedendo. In realtà il mercato in questo momento è molto complesso, è molto sottile e i movimenti sono legati a coperture e ricoperture di operatori che si muovono in funzione delle aspettative. Operatori prevalentemente europei, mi chiedo, Vittorio, perché i grandi giganti anche industriali internazionali, ieri abbiamo raccontato il clamoroso caso di Shell, hanno ormai deciso di disimpegnarsi completamente dall'eurozona. Si tratta di vedere anche qui di quale mercato parliamo. Se parliamo del mercato azionario, è probabile che ci siano più operatori domestici, però anche qui uno può pensare che se c'è un hedge fund che vuole puntare sul ribasso, magari questo può essere un hedge fund anglosassone piuttosto che americano. Sul mondo, per esempio, invece dei mercati della valuta, è più comprensibile che ci siano operatori più internazionali, non ci sono soltanto gli operatori europei, perché si tratta di un, ricordiamolo, di un mercato che al giorno gira quasi 4.000 miliardi di dollari. Se si tratta dei titoli di Stato, anche qui è un altro paio di maniche. Dipende anche un po' dalla, diciamo, volontà e strategia che uno ha. Quello che è comunque certo è che non ci sono... ci sono ancora, ma in minor parte, i fondi delle Scottish Widows piuttosto che i fondi pensione. In questo momento un mercato Scottish dominato... Widows sono le vedove scozzesi. Sì, sì, sono le vedove scozzesi. Per dire, gli investitori che tengono per un certo periodo di tempo il cassettista, insomma, il titolo per poter in qualche modo guadagnare. I mercati in questo momento è un mercato prettamente speculativo, che non vuol dire che la speculazione sia una cosa negativa o positiva. È semplicemente un modo di fare trading e che però sfrutta anche i ribassi. In borsa si guadagna anche tanto attraverso i ribassi, non soltanto attraverso i ribassi. Bisognerebbe fare veramente una piccola analisi a beneficio dei nostri ascoltatori per raccontare loro come funziona anche tutto questo. Detto ciò, il Wall Street Journal non si è oggi sbizzarrito solo nella diffusione di questa intervista a Mario Monti, dove ha detto, perché poi gli è costata anche una telefonata di scuse con Berlusconi, che ai tempi di quel governo, se ci fosse stato ancora quel governo, probabilmente lo spread sarebbe stato a 2 milioni di punti base, 1300 ne ha indicati. Quindi, a parte questa intervista, oggi il Wall Street Journal ha pubblicato, anzi ha enfatizzato il contenuto di un blog che lui stesso pubblica, che mette in guardia appunto i lettori da questa crisi europea e indica una data che potrebbe rappresentare il simbolico inizio di una nuova stagione di crisi per l'euro, come se quella attuale si fosse assestata, stato tranquillizzata, e tutto sembra avviato per un inizio con il botto, un inizio autunnale. Indica una data precisa, il 12 settembre, e ancora una volta, insomma, c'è chi si sbizzarrisce ad simulare uno scenario disfattista per la zona del vecchio continente. Allora, ti convince intanto il contenuto di questo blog? Perché indica proprio il 12 settembre, Vittorio? Ma il discorso che fa questo blog, permesso che comunque il Wall Street Journal è un giornale assolutamente importante e quindi comunque diciamo è un po' la Bibbia del capitalismo americano, però questi articoli secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, non soltanto questo blog, ma ce ne sono tantissimi altri blog, altri giornali. Il mondo anglosassone in questo momento, anche dal punto di vista mediatico, spesso e volentieri tifa contro l'area euro. L'abbiamo abbiamo visto tante volte nel recente passato. E il discorso del 12 settembre viene riportato è perché in quella data gli olandesi voteranno per un nuovo governo, mentre la Corte Costituzionale tedesca, questo è ben più importante, deciderà se il fondo salva stati permanente, il famoso ESM, ha diciamo una struttura che può essere conforme alla Costituzione tedesca oppure no. Io credo che indubbiamente questa data è importante, ma è un po' quello che dicevamo prima, è la ricerca sempre di trovare una data, una motivazione che ci possa un po' confortare, tranquillizzare anche nel negativo per dire ecco bene, noi sappiamo che lì c'è un appuntamento e in qualche modo dovrà succedere qualcosa. Questo è sempre la solita situazione anche da finanza comportamentale, di quando, ma non è tanto caricare le attese, è proprio la necessità di avere come una sorta di scenario, quando invece purtroppo lo scenario è incerto. Non è che la situazione è cambiata oppure no dopo le indicazioni da parte di Mario Draghi. Mario Draghi nel recente discorso che ha fatto giovedì, che prima è stato considerato come disfattista, negativo, assolutamente negativo, e le borse sono crollate, tutto fumo e niente arrosto, l'hanno poi considerato, il giorno poi dopo, la ciccia è tornata il giorno dopo. Sì. Allora uno dice o siamo tutti pazzi oppure evidentemente come dire c'è una situazione che viene letta in maniera troppo semplicistica. Io forse l'ho detto anche altre volte quando sono venuto ospite da te, i mercati sono molto complessi. Una delle cose che non ci che diciamo sempre anche sul giornale e spesso e volentieri è questo: purtroppo è entrata nella vita di tutti i giorni un qualcosa che non è così semplice, non si può semplificare in due parole. Io e non è solo lo spread, diciamo, certo, è tutto un complesso. Certo. Io ho sempre un po', come dire, mi fa un po' arricciare il naso quando sento queste trasmissioni in cui, non ovviamente qua, ma quando si semplifica un po' tutto, la dichiarazione, salgono le borse per questo. Purtroppo i mercati sono molto complessi, basterebbe dirti che sull'azionario ormai dal punto di vista del controvalore la prima borsa in Europa non è la borsa classica che noi conosciamo, ma è una borsa alternativa, cioè è una piattaforma alternativa che si chiama CAIX, e basterebbe solo già questo per far capire che anche sul mondo dell'azionario banale degli scambi è un mondo complessissimo dove ci sono un sacco di piattaforme che si contendono i volumi, le azioni eccetera. È ovvio che in questo mondo tu, quando non sai bene le cose, cosa fai? Semplifichi. Allora cosa butti lì? Il 12 settembre, perché poi ovviamente richiama l'11 settembre per gli americani, che è una data, come dire, tragica, ma in qualche modo facilmente ricordabile. E quindi è tutto un semplificare e non spiega nulla. Certo. Io, ripeto, quando leggo questi blog passo e vado. Sono ben altri i blog più interessanti che danno delle indicazioni però, puntuali. Noi non abbiamo detto, però siccome questo poi domani sarà riportato con grande enfasi su tutte le prime pagine dei giornali italiani, almeno noi abbiamo tentato un po' di spiegare qualche volta cosa c'è dietro anche a questi lavori. Detto questo, io lunedì vado in vacanza, però il 12 settembre ci ritroviamo qua per vedere se si è verificata qualcuna di queste previsioni nefaste. Io mi auguro che la Corte Costituzionale, per chiudere, comunque voti a favore del Fondo Salva Stati Permanente, anche se secondo me comunque rinviare a tempi così lunghi, questo sì, crea dei problemi, e questo è un po' il dilemma che anche oggi abbiamo visto sui mercati. Oggi si rimbalza, rimbalzi tecnici, però questo tempo intermedio, questo interregno di incertezza che noi avremo ad agosto, tutti gli operatori sono sui monitor perché hanno paura che possa succedere. Sono andati in ferie in pochissimi, insomma, ricordando anche quello che stavamo vivendo esattamente un anno fa. Grazie Vittorio Carrini, buona serata. E allora, Focus Economia, dopo aver parlato di mercati e di scenari complessivi, andiamo adesso al dettaglio della giornata di Piazza Affari. Tra l'altro giornata in cui ho completamente trascurato anche l'andamento del mercato americano, ma anche qua abbiamo il segno più, per fortuna, con il Dow Jones che ha più 0,64%, Nasdaq in rialzo di un punto, Standard & Poor's più 0,80% e Milano chiude con un rialzo del 2,19%. Ciao Condi, nel Sole 24 Ore, buonasera. Ciao. Buonasera a voi, ciao. Allora, giornata anche questa assolutamente brillante, abbiamo cercato di spiegare le motivazioni per cui anche oggi abbiamo beneficiato di un'altra giornata di rialzi. Andiamo a vedere chi ha provocato, chi ha determinato questi progressi, soprattutto su Milano. Oggi il mercato ha deciso intanto di puntare sulle utilities, regina degli scambi A2A più 9,94%. C'è qualche notizia a sostegno di questo rialzo? Guarda, oggi tutte le utility, poi anche il comparto delle energie in Europa è stato, per così dire, spinto dalle previsioni fatte dal colosso tedesco E.ON sul primo semestre, che dovrebbe vedere utili triplicati rispetto all'anno scorso, in particolar modo per la rinegoziazione degli accordi di fornitura del gas con Gazprom, e quindi così le principali utility italiane esposte sulla generazione di energia come A2A, che poi dopo l'acquisizione di Edi Power è il secondo operatore energetico italiano, ed Enel, che è il primo operatore energetico, sono rimbalzate, visto che nel 2012 le loro performance in borsa erano state abbastanza magre, quindi A2A più 9,9% e Enel più 3,2%. C'è da dire che sulla multiutility lombarda poi incidono anche altri fattori, come la semestrale appena chiusa, che è stata superiore alle attese, e poi anche la recente cessione della francese Corians, che impatterà sulla posizione finanziaria netta con un miglioramento di 160 milioni. Lo spread oggi è sceso. Adesso magari lo riaggiorniamo, poco fa era 447 punti base, adesso siamo a 449, questo naturalmente ha permesso un ritorno consistente di acquisti sui titoli bancari. E però qua bisogna spiegare su Unicredit cosa succede, perché abbiamo avuto due giorni fa il nuovo downgrade di Standard & Poor's sulle banche italiane, un provvedimento che non aveva toccato le due big di Milano, Intesa San Paolo e Unicredit. Però ieri Unicredit aveva perso terreno lo stesso, perché altre società di analisi avevano bocciato il titolo, avevano tagliato il target price, e quindi provvedimenti di questo tipo che mediamente condizionano le quotazioni. Oggi il mercato riscopre Piazza Cordusi e fa più 6,68%, ma gli operatori sono decisi o no su che provvedimenti prendere e che posizioni prendere sul gruppo guidato da Federico Ghizzoni? Beh, diciamo che non è che si muovono sempre in modo coerente e razionale, poi c'è anche specie in questi giorni in cui i volumi sono molto sottili, c'è anche una forte componente di speculazione. Per quanto riguarda Unicredit, c'è da registrare oggi, anche ci sono da registrare le parole dell'AD Federico Ghizzoni, che ha detto che sicuramente l'anno prossimo, se ci saranno le condizioni, ci sarà anche un dividendo, che potrebbe essere un gradito ritorno per gli azionisti. Il titolo comunque oggi è stato favorito, insieme ad esempio a Mediolanum, che ha fatto più 3,8%, anche dalle attese di un prossimo intervento, una mossa straordinaria della BCE per acquistare titoli a breve termine di Italia e Spagna. La stessa Mediolanum è molto esposta su questi titoli, e quindi insomma un intervento della BCE, così come un calo dello spread, ha un effetto benefico su titoli finanziari di questo genere. Volevo segnalare anche il rialzo della Popolare dell'Emilia Romagna più 5%, perché questa banca è stata invece colpita da Standard & Poor's, tanto che ha declassato i suoi titoli a junk a livello spazzatura. Ne abbiamo parlato molto ieri insieme a Carige e alla BPM, questo è il provvedimento che tutte e tre appunto hanno subito, ma hanno già fatto sapere che presenteranno ricorso contro Standard & Poor's appunto nei confronti di questo giudizio così penalizzante. Insieme a loro agirà una banca non quotata, la Popolare di Vicenza. Così, per dovere di cronaca, mi piaceva segnalare anche questa iniziativa. Telecom Italia più 3,82%, Mediolanum, me lo dicevamo, più 3,79%, Mediaset più 3,79%, ma le due società del Biscione si sono mosse nella stessa identica percentuale. Enel più 3,28%, Atlantia più 3%. Su Atlantia mi sembra che ci siano state delle notizie. Sulla stampa, in particolare La Repubblica, rilancia il rumor riguardo una possibile fusione fra Atlantia e Gemina, cioè fra i due business che fanno capo alla famiglia dei Benetton. Atlantia sono le autostrade, Gemina sono gli aeroporti. A dire la verità, questa operazione è stata più volte smentita dalla famiglia di Ponzano Veneto, comunque forse se viene ribadita tutte queste volte un fondo di verità c'è, e oggi il mercato sembra crederci, visto che Atlantia ha guadagnato il 3,1%. Altri titoli che hanno avuto prestazioni abbastanza significative: Parmalat più 2,98%, Mediobanca più 2,86%, Salvatore Ferragamo più 2,39%, Generali più 2,36%, più 2,36% anche per UbiBank, più 2,35% per Enel Green Power, più 2,23% per Finmeccanica, STM più 2,15%, Pirelli più 2,06%. Andiamo ai segni meno e raccontiamo la giornata di Campari, che si chiude con un meno 1,67%, però nel corso corso della giornata andava anche peggio. Eh sì, qui c'è una debolezza di fondo oggi perlomeno del comparto alimentare europeo, poi c'è stato anche un taglio della raccomandazione sempre per Campari da parte di alcuni analisti, e questo va a contrasto sicuramente con il semestre che ha chiuso il gruppo, che ha registrato vendite in crescita, un EBITDA in rialzo del 5-7% e un utile anch'esso in rialzo quasi a 78 milioni. Ricordiamo comunque che nel 2012 la performance di borsa di Campari resta positiva, più 12%, quindi insomma una seduta così ci può anche stare. Un titolo anti-spread davvero, come per esempio Diasorin, che oggi ha frenato per lo 0,87%, ma questo titolo aveva corso molto negli ultimi giorni. Buzzi Unice, meno 0,8%, Prismi, anche oggi mi pare CEO ha comunicato i suoi dati? Sì, dei dati in crescita, ma diciamo in linea fondamentalmente con le attese degli analisti, e quindi... Senza infamia e senza lode, diciamo così. Grazie. I tempi non è poco. Esatto. Grazie a CEO Condine e buona serata. A presto. Noi andiamo adesso, abbiamo sentito che già chiuso il telefono, CEO, andiamo all'ultimo tema che approfondiamo oggi. E allora, oggetto di indagini sull'inquinamento di un'accusa di disastro colposo e doloso, l'Ilva di Taranto oggi ha anticipato, per la verità, un appuntamento previsto per domani. Non ha anticipato l'azienda questo appuntamento, lo ha fatto il Tribunale del Riesame di Taranto, che ha confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva, finalizzandolo al risanamento dello stabilimento. Il Tribunale appunto lo ha precisato, il provvedimento è finalizzato al risanamento dell'impianto e non alla chiusura, ma in molti non ci credono, lo ha detto anche, ha espresso una grande preoccupazione su questo anche il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, lo sentiremo tra un attimo. Prima però saluto e ringrazio il collega di Taranto Domenico Palmiotti, che saluto. Domenico, buonasera. Buonasera. Faccio subito ascoltare quello che ha detto Passera sulle novità di questa giornata. Ci deve essere l'impegno di tutti a non chiudere Taranto, perché si porta dietro non solo il resto del gruppo Riva, ma si porta dietro una serie di filiere che potrebbero trovarsi bloccate nella loro attività. Però allora come risolve l'equazione, diciamo, pane e veleno, o una o l'altra cosa? Beh, guai a mettere soprattutto i lavoratori di fronte a questa inaccettabile alternativa. Sì. Però quello che l'azienda stava facendo, quello che come pubblico abbiamo fatto, i 300 e rotti miliardi che abbiamo messo a disposizione per bonifiche, per interventi, la buona volontà di dare il tempo di raggiungere certi standard e anche il buon senso di avere come riferimenti dei parametri magari non estremi, dovrebbero tutti insieme permetterci di evitare la chiusura, perché poi questi impianti, se li chiude, no, finisce. Non li riapre, non si riaprono più. Non è roba che c'è l'interruttore. Ci vuole tempo per chiuderli e se poi è praticamente impossibile. Uno di questi forni non li riaccendi più, e questo sia per quella città, sia per quella regione, sia per l'Italia, sarebbe un costo veramente eccessivo. Domenico, le dichiarazioni di Passera sono precedenti alla decisione del Tribunale del Riesame, sono di questa mattina, era un'intervista rilasciata alla RAI. È questo il clima a Taranto? Si teme che anche se il provvedimento è finalizzato al risanamento dello stabilimento poi non si riapra più? Ma guarda, poco fa è finita la conferenza stampa del presidente dell'Ilva Ferrante. Ferrante ha espresso due cose: grande amarezza, grande dolore per il fatto che Emilio Riva, il figlio e l'ex dirigente di Taranto Capogrosso rimangano agli arresti domiciliari, però ha anche messo in chiaro come nel provvedimento del riesame non si parli più di chiusura dello stabilimento, di fermata e di blocco delle lavorazioni. Si dice appunto che i commissari dovranno garantire che si centrino gli obiettivi di risanamento della fabbrica e di ecocompatibilità del siderurgico di Taranto. In questo senso lo stesso Ferrante fa parte della squadra dei custodi giudiziari e si affiancherà a quelli che ha designato appunto il CIP con l'obiettivo di trovare un percorso comune. È stato chiesto al presidente Ferrante se l'azienda ha un'idea di quanto sarà necessario in termini finanziari per mettere a norma la fabbrica. Lui ha detto che c'è un budget in divenire e che comunque bisogna fare sintesi fra le indicazioni dell'AIA, che è l'autorizzazione integrata ambientale, fra quelle che emergeranno dal tavolo sulla bonifica e da poi da quello che ha chiesto anche il GIP, da quello che chiederanno i custodi giudiziari delegati dal magistrato. Ecco, Domenico, abbiamo pochi istanti, ma magari un'ultima domanda te la faccio. A me ha incuriosito abbastanza il fatto che Ferrante, ma forse è una cosa naturale, sia stato chiaramente confermato nelle sue prerogative, ma sia stato anche indicato come appunto un commissario della gestione di questo risanamento in qualche maniera. Ma è normale secondo te? Ferrante ha preso il posto del presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Taranto, Tagarelli, che nel provvedimento del GIP avrebbe dovuto ricollocare, occuparsi della parte amministrativa, ma anche ricollocare il personale delle aree sottoposte a sequestro nel momento in cui queste aree fossero state chiuse. Il fatto che Tagarelli sia stato tolto dai commissari e introdotto appunto Ferrante significa che c'è l'intenzione non di chiudere, ma quello di consentire il risanamento della fabbrica. Quindi lo guardiamo in termini positivi. Oltretutto lo stesso Ferrante, a domanda del presidente del collegio del riesame, ha manifestato la sua disponibilità a far parte di, come dire, dei custodi giudiziari. Domenico, grazie per essere stato con noi. Buona serata, buon lavoro. Ringraziamo Domenico Palmiotti, Il Sole 24 Ore di Taranto. E ringrazio Mauro Del Corno, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica. E noi ci risentiamo domani con le borse, con Salva Danaio. Ancora è Focus Economia da Deborah Rosciani. Buona serata. Radio 24. La passione si sente.